Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Tra gli studenti gruppi di facinorosi, dice Berlusconi, la Gelmini li convoca per discutere. Nelle università è ancora blocco delle lezioni, a Milano si studia in Piazza Duomo. Un altro venerdì nero, le borse europee non riescono a reagire, le perdite superano anche il 10%. La buona notizia arriva dal petrolio, con prezzi ai minimi dal maggio del 2007, ma l'OPEC taglia la produzione. E a sorridere è Catania, con i conti in crisi ma baciata dalla fortuna del Superenalotto. A Palermo si apre il maxi processo contro il Pizzo, alla sbarra 76 imputati, lo Stato è parte civile. Le pietre suonano per la pace ed è Assisi cantiere aperto per la marcia dell'arcobaleno. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Anna Migliorati. Tra mezz'ora, alle 13.30 circa, si aprirà il confronto atteso tra gli studenti da una parte e il ministro della pubblica istruzione Maria Stella Gelmini dall'altra. Promessa mantenuta, ma questo incontro, ma la tensione però non sembra allentarsi. Da una parte infatti gli studenti parlano di convocazioni tardive e al momento non risultano convocati i rappresentanti della protesta che anche oggi va avanti. Dall'altra parte il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, da Pechino, dov'è in viaggio, accusa i manifestanti. Allora, facciamo il punto con Andrea Viali. Sì, dunque, dopo la marcia indietro sull'ipotesi di utilizzare la polizia, le forze dell'ordine per sgomberare scuole e facoltà occupate poche ore fa dalla Cina, Berlusconi, come dicevi Anna, è tornato sulla protesta studentesca, ha negato di aver cambiato atteggiamento su questa protesta, anzi ha affermato che tra i manifestanti nelle scuole ci sono dei facinorosi appoggiati dall'estrema sinistra, dai centri sociali e sostenuti, ha detto in sostanza Berlusconi, anche dai giornali. Parole che, come prevedibile, sono state accolte da critiche sia da parte delle associazioni degli studenti, anche quelle di estrema destra, sia dal Partito Democratico, e il segretario del PD, Veltroni, ha fatto sapere di aver chiesto il ritiro del decreto sulla scuola per permettere l'apertura di un confronto sulla scuola, sull'istruzione, aperto a tutte le forze politiche. Intanto il Ministero dell'Interno ha fatto il punto sulla protesta studentesca di questi giorni, protesta che ha visto finora più di 300 manifestazioni e occupazioni in 150 scuole e 20 facoltà nelle università. Il Viminale ha anche rinforzato, lo ricordiamo, la scorta al Ministro dell'Istruzione Gelmini, che ieri da un lato ha denunciato quella che definisce una campagna terroristica nei suoi confronti, dall'altro invece ha aperto al confronto con le associazioni degli studenti, un confronto, come dicevate, che inizierà tra poco nel primo pomeriggio, e fra le associazioni convocate dal Ministro c'è anche l'Unione degli Universitari. Ecco, la nostra Gioia Reffo ha parlato poco fa con Giorgio Paterna, uno dei rappresentanti di questa associazione, sentiamolo. Noi porteremo le richieste che vengono da tutte le assemblee, dalle mobilitazioni che ci sono in tutta Italia, che sono contro la legge 133. È chiaro che il nodo centrale su cui verterà la discussione saranno gli articoli 16 e 66, che parlano delle fondazioni, del turnover al 20% e della riduzione ingente di finanziamenti per l'università. Ecco, queste le richieste degli universitari, mentre alcune associazioni dei liceali hanno fatto già sapere che chiederanno al ministro di ritirare il ritiro del decreto che porta il suo nome e che in questi giorni, decreto che in questi giorni è all'esame del Senato. Per il momento è tutto. Grazie Andrea Viali. E allora veniamo a Milano, dove, come abbiamo annunciato anche nei nostri titoli, si fa lezione in Piazza Duomo. Storia dell'arte. Le cattedrali di Milano erano due edifici. Uno era esattamente il più grande, era in questo spazio dove sono io adesso. Si chiamava la chiesa di Santa Tecla. Un'altra era più piccola ed era Santa Maria Maggiore. Giapponese. Hayasa, avete mai avuto la professoressa Suzuki? Sì. Ecco, il suo bambino diceva Sugoi Hayasa de Hashiro, quando era piccolo. Ah, sì. Sugoi Hayasa de Hashiro. Attualità. Io credo che tutto questo sia stato determinato da due cose: dalla persistenza di una corporazione accademica e dall'alleanza di questa corporazione con un ceto politico al quale non interessava realmente avere un'università diversa. Gli studenti si riprendono Piazza Duomo, ancora una volta coinvolgono professori e ricercatori. La protesta milanese contro i tagli disposti dal decreto 133 questa volta è costruttiva, come la definiscono gli stessi ragazzi. Lezioni aperte, nel senso che oltre ad essere open air, raccolgono la presenza di curiosi e turisti. Circa 200 manifestanti seguono russo, diritto costituzionale e arabo. La voglia, qui in Piazza Duomo, è dimostrare che non ci sono facinorosi. Più che andare in giro a spaccare le vetrine, cioè mi sembra molto più costruttiva, anche per eliminare questa figura di ragazzi studenti che hanno voglia di far casino e basta, che alla fine fa perdere credibilità alla protesta. Marco Lignana, GR24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di protesta e del, se vogliamo, giravolta delle parole di Silvio Berlusconi o dell'interpretazione di queste parole sull'intervento della polizia nelle università, la vignetta sul manifesto di Vauro: Gelmini si allarga la protesta, c'è un Berlusconi con i jeans e una borsa a tracollo che porta un cartello con scritto "Fuori la polizia dalle scuole". E noi continuiamo ad entrare nel merito di questa protesta. Ieri vi abbiamo spiegato cos'è la legge 133 che contestano gli studenti universitari. Oggi e nei prossimi giorni cercheremo di analizzare cosa prevede invece il decreto Gelmini per la scuola. E cominciamo dalla questione del maestro unico. È previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con orario di 24 ore settimanali. Così l'articolo 4 del decreto 137 stabilisce il ritorno nelle scuole elementari di un solo insegnante, o quasi. Il maestro prevalente, infatti, nella maggioranza dei casi sarà affiancato dall'insegnante di lingua straniera e da quello di religione, a meno che il docente unico non dimostri la specializzazione necessaria ad insegnare anche queste due materie, eventualità che raramente potrà verificarsi. Le classi poi, come abbiamo sentito, funzioneranno con un orario di 24 ore settimanali, da qui il timore di una penalizzazione del tempo pieno. Ma l'articolo 4, a questo punto, prosegue. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola. Questa disponibilità ad ampliare il tempo scuola non si tradurrà, secondo il ministro Gelmini, in una riduzione del tempo pieno, bensì addirittura in un suo incremento del 50%. Ma come? Il meccanismo è spiegato dalla rivista Tutto Scuola con un esempio concreto. Attualmente 3 classi su 4 sono organizzate a moduli, vale a dire a 27-30 ore. 1 su 4 invece è a tempo pieno. Se circa la metà delle classi a modulo passasse a 24 ore settimanali con docente unico, si libererebbero circa 25-26.000 insegnanti. Se un terzo di loro fosse reimpiegato in nuove classi a tempo pieno, queste aumenterebbero, fatti i debiti calcoli, del 50%. Il tutto, previo accordo in conferenza unificata, potrebbe verificarsi nell'arco di 3-5 anni, ma solo grazie a una rigorosa programmazione dell'economia di organico e a una disponibilità da parte dei comuni ad attivare i servizi necessari. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Il Senato ha approvato questa mattina la conversione in legge del decreto sulla Alitalia. I senatori hanno confermato le modifiche della Camera, tra cui la cancellazione del comma salva manager. L'approvazione adesso è definitiva. Ricordiamo anche che oggi la CAI e i sindacati tornano ad incontrarsi per i contenuti del contratto. Nuovo tonfo delle borse, nuovo venerdì nero, più avanti il nostro approfondimento economico, ma subito gli aggiornamenti da Deborah Rosciani. Sì, meno 8,60% a Parigi, meno 8,84% a Francoforte, meno 7,55% a Londra, Milano meno 8% sull'S&P MIB. Questa è la sintesi di questo nuovo venerdì nero per i mercati finanziari, già una giornata cominciata malissimo su tutti i versanti asiatici, con il Nikkei che a Tokyo ha chiuso con un ribasso del 9,60%, ma tanto per citare altri esempi, anche la borsa di Seoul ha registrato un crollo del 10%, la peggior performance dal 1983. Quindi l'Europa non poteva rispondere diversamente, ma soprattutto stamattina sono arrivate cattive notizie su molti versanti. In Gran Bretagna c'è una flessione del PIL dello 0,5%, quindi il Regno Unito, anche per il Regno Unito ormai recessione più o meno conclamata. Abbiamo avuto l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona in ottobre pesantemente caduto, ma soprattutto abbiamo notizie pesantissime sul versante dell'industria automobilistica. Pensate, c'è intanto l'allarme utili di Peugeot Citroën, l'allarme utili di Volvo dalla Svezia, ma soprattutto Renault ha fatto sapere che chiuderà la quasi totalità delle fabbriche per almeno 1 o 2 settimane, a partire proprio dalla prossima settimana. E questo sta provocando ovviamente il tonfo soprattutto del comparto auto questa mattina in tutta Europa. Un'occhiata rapidamente a Piazza Affari: tonfi più pesanti, Intesa San Paolo meno 13,73%, Fiat meno 11% sospesa in questo momento, 8, Tenaris meno 10, Monte dei Paschi meno 10, Impregilo meno 10, Unicredito meno 9,92%. Direi che per il momento è tutto. Davvero, grazie Deborah Rosciani. Queste le cattive notizie, chi sorride invece è certamente Catania. Numero 0, 17, 17. Lo ripeto, biglietto serie Z, numero 0, 17, 17. Quale casa starà festeggiando? Ovi! Via tu! Ovi! Ovi! Ovi! Ovi! Ma pronto! Chiesa 3! Un'ambulanza subito! Via! Sono io che sto male, sì. Questo era Paolo Villaggio, naturalmente, in un frammento memorabile. 100 milioni di euro, tanto ha valso il 6 al Superenalotto centrato a Catania. Però una cifra questa qua che vogliamo provare così a quantificare. Sapete quanti sono? A Beverly Hills c'è in vendita, per esempio, a 100 milioni di euro, la villa in cui Francis Ford Coppola girò Il Padrino. Ha 29 camere, 40 bagni, 3 piscine. Questo tanto per fare un riferimento. A 100 milioni di euro il presidente del Palermo Calcio ha messo in vendita addirittura tutta la squadra di calcio. Poi c'è anche un dato un pochino più serio. 150 milioni di euro sono quelli che lo Stato ha dato al comune proprio di Catania per evitare la bancarotta. E chissà cosa ne pensa il primo cittadino, Raffaele Stancanelli. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che ne farebbe lei di 100 milioni di euro? Ma pensiamo a cosa ne farà chi ha vinto. Io sono contento perché è una ventata di ottimismo su Catania. L'avete detto, Catania è una situazione difficile. Vi è stata una decisione del governo nazionale di contribuire a far sì che non ci sia il dissesto finanziario con 140 milioni di euro. Certo, 100 milioni in un quartiere popolare, mi auguro che siano un gruppo di cittadini ad aver vinto, non può che farmi contento, ma nello stesso tempo lo vedo come un buon auspicio per le difficoltà di Catania. Senta, non entrano direttamente nelle vostre casse, ma insomma 150 più altri 100 arrivano comunque sempre dallo Stato, ve ne stanno arrivando di soldi. Ma le ripeto, i 100 milioni per qualche catanese mi rendono contento, ma mi fanno anche ben sperare su questa novità di fiducia su Catania. Mi facevano osservare ieri sera degli amici che mi hanno telefonato che da quando sono sindaco alcune cose positive e belle sono avvenute, per esempio la Nistale di Catania. Il Catania sta facendo un ottimo campionato, il secondo in classifica. I 140 milioni che sono stati decisi per Catania, questi 100 milioni, speriamo di continuare per ripartire a Catania. E vi auguriamo tanta fortuna. Grazie al sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli. E noi restiamo in Sicilia, andiamo a Palermo, dove si è aperto il maxi processo contro il racket. 14 tra commercianti e imprenditori sono presentati come parte civile in un processo ai clan delle estorsioni. È la più grossa costituzione di parte civile di vittime del pizzo mai avvenuta. Sul banco degli imputati, pensate, ci sono 76 tra boss, estorsori, favoreggiatori, tutti riuniti nell'aura bunker del Lucciardone. In aula, naturalmente, oltre alle vittime, c'è anche il commissario nazionale antiracket Giosuè Marino e il sottosegretario all'interno Alfredo Mantovano. Roberta Pellegatta l'ha intervistato. Io sono sempre restio dall'usare aggettivi altisonanti, però mi sembra adeguato in questo caso adoperare la qualificazione di storico per definire un passaggio processuale che non ha precedenti. Secondo lei è un passo decisivo nella lotta al racket? Noi lo consideriamo un punto di partenza. Ci auguriamo che tanta altra gente denunci, perché per ogni persona che denuncia c'è un delinquente che viene dissuaso dal compiere questo tipo di attività, che oggi più che una fonte di introito per Cosa Nostra è una manifestazione di presenza e di controllo del territorio, e quindi la resistenza a questo tipo di iniziative criminali è una resistenza duplice: serve a tutelare se stessi e il proprio patrimonio, ma serve a tutelare il contesto geografico, sociale e la nazione nella quale si vive. Parte la stagione di sci. Denise Carbon, la sciatrice azzurra che detiene la Coppa del Mondo di slalom gigante, sarà all'esordio domani a Solden in Austria. L'ha sentita per noi Dario Ricci, scusate. Ma sì, emozione sicuramente bella, soprattutto adesso a tornare qui a Solden dove l'anno scorso tutto è iniziato. La situazione quest'anno è un po' diversa perché gli occhi sono tutti puntati su di me e sicuramente un po' di pressione la sento. Però nonostante tutto sono molto tranquilla, mi sono preparata bene e adesso sono contenta che si ricomincia. Lavoro immagino molto puntuale dal punto di vista tecnico e fisico, ma parlavi della pressione, dal punto di vista psicologico hai lavorato in modo particolare per gestire al meglio il ruolo di grande protagonista, di favorita? Ma no, intanto ho provato solo a seguire il mio programma, la mia preparazione con tranquillità, è andato tutto bene passo dopo passo e adesso che le gare sono vicine si sente di più la pressione, però dovrò cercare comunque di stare tranquilla, di concentrarmi su di me stessa, sulla mia sciata e come sempre cercare di dare il massimo. L'anno scorso stagione straordinaria, le vittorie consecutive, i podi ottenuti o anche in condizioni fisiche difficili con quella mano, insomma, veramente mal ridotta. Quanto ti manca per poter puntare alla Coppa Generale? Lì mi mancano un po' i sci lunghi. Proprio lascio perdere lo Super G e la discesa, non ho fatto neanche un allenamento e per me non è un tema questo. Io mi concentro sulle discipline tecniche, sul gigante e lo slalom, cercando di fare lì, di ripetere un po' le prestazioni dell'anno scorso in gigante e di migliorare i piazzamenti in slalom e allora sono già contenta, perciò la Coppa Generale per me non è un obiettivo. 13:20 minuti, le notizie di oggi extra large. Nuovo venerdì nero per i mercati europei, listini in caduta fino al 10%, Milano cede il 7%. Sul fronte economico la Gran Bretagna registra la prima diminuzione del PIL da 16 anni a questa parte. L'OPEC taglia la produzione del greggio di 1,5 milioni di barili al giorno dal 1 novembre. Si incontreranno tra meno di mezz'ora il ministro Gelmini e una delegazione degli studenti universitari. A Milano e Napoli sono cominciate intanto le lezioni in piazza, occupazione a Torino. A Roma annunciata per martedì una lezione al Colosseo. Berlusconi intanto dice tra gli studenti ci sono faccino rosi. All'Italia il Senato approva e il voto è definitivo la conversione in legge sul decreto sulla compagnia. Confermate le modifiche apportate dalla Camera, oggi i vertici della CAI tornano ad incontrare i sindacati. Le pietre suonano, ebbene sì, e ad Assisi lo fanno per la pace. Lo slogan potrebbe essere: da una pietra può germogliare la pace, i semi della pace in particolare. Così infatti si chiamano le pietre sonanti dell'artista Pinuccio Sciola, pietre disposte nella piazza di fronte alla Basilica di San Francesco d'Assisi, dove si prepara la marcia per la pace. Pietre che emettono suoni, dunque Dario Ceccarelli ha intervistato questo artista. Siamo qui con Pinuccio Sciola, grande scultore sardo conosciuto in tutto il mondo. Sciola è ad Assisi, alla Basilica di San Francesco, dove sta seminando qualche cosa di particolare. Ce lo puoi raccontare? Ma non è la prima volta che mi presento con le opere nella Basilica, nella piazza della Basilica di San Francesco, per cui ormai c'è un rapporto molto, molto stretto anche con il santo soprattutto. E sono stato 5 anni fa con le pietre sonore, è stato un evento importante, importantissimo, perché far sentire a chiunque il suono che c'è dentro la pietra è stata una cosa che per gli stessi francescani è a dir poco scioccante, perché San Francesco, quando scrisse il Cantico delle Creature, non parlò mai delle pietre. Certo, i francescani dicono, oh, ha parlato del creato, ma naturalmente, però siccome ha sottolineato il vento, il sole, l'erba, i fiori. E allora io, per accedere in quella piazza, quando mi hanno chiesto di scrivere qualche cosa, ho scritto una lettera direttamente a San Francesco, così saltando qualche intermediario. E gli avevo scritto allora, caro San Francesco, quando tu parlavi all'acqua, ai fiori, alle stelle, la pietra in silenzio stava ad ascoltare. Adesso, grazie all'intuizione di un artista e alla tecnologia, la pietra ti fa ascoltare i suoi suoni, la sua musica nella tua piazza e nella tua chiesa. Tanti saluti, Pinuccio Sciola. Questo fatto ha veramente interessato talmente i francescani che ci permettono, oltre a un'esposizione enorme che è durata tutto il mese, ci permettono un concerto dentro la Basilica Superiore, ma la cosa più emozionante di tutto è che alla fine della manifestazione i francescani ancora increduli hanno voluto una mia scultura, una mia pietra sonora accanto alla tomba di San Francesco, ed è l'unica opera che c'è nella cripta di San Francesco d'Assisi. Questa è, diciamo, la premessa, perché poi quest'anno sono tornato ad Assisi con altre pietre molto grandi, tra l'altro pietre anche di 1,50 m, 1,80 m, con le quali sono entrato dentro e scavarle per tirarne fuori l'anima. Per cui sono proposte in questo contesto per tutto il mese di ottobre fino al 4 di novembre come i semi della pace. Senti, Pinuccio, quando tu dici le pietre suonano, parlano, la gente magari che non ti conosce rimane un po' perplessa, dice: ma come fa una pietra a parlare, a suonare? Guarda, io posso dare una dimostrazione. Qui accanto al telefono ho una pietra che io semplicemente accarezzo col palmo delle mani. Questi suoni vengono dall'interno della pietra, in quanto io non effettuo nessun tipo di percussione, è soltanto proprio accarezzandole con il palmo della mano. Io continuo poi, ecco, vi rubo un altro minuto, e direi che questi sono dei suoni liquidi, semplicemente perché questa pietra che sto accarezzando è un calcare. E il calcare geologicamente non è altro che acqua fossilizzata, per cui la memoria della materia quando era acqua è rimasta impressa, che basta proprio appena sollecitarla che viene fuori questo suono completamente inedito. Quali sono le reazioni delle persone quando sentono questi suoni? Ma sono stupefatti, perché è soltanto pensare mentalmente dappertutto, in tutte le civiltà, in tutte le culture, pietra suono uguale percussione, mentre in questo caso non si effettua nessun tipo di percussione e nessuno mai penserebbe alla pietra con questi suoni. Che, ripeto, sono i suoni della pietra, perché sono lì dentro la pietra. Siccome, questo non lo dico io, ma tutti i suoni sono dati da una vibrazione, allora è impensabile, ecco, pensare mentalmente che una pietra possa vibrare, mentre io sono in grado di far vedere addirittura la pietra elastica, che per vibrare, per cui per emettere i suoni, la pietra si muove. Quindi credo che qui si stiano ribaltando non pochi concetti acquisiti da sempre, perché in questo caso chiunque può sentire, non è vero che la pietra è muta, non è vero che è così rigida perché diventa elastica proprio per emettere questi suoni. Senti, e quindi è un messaggio che viene da lontano, ma che porta anche un messaggio di pace, un messaggio della pace. Beh, quest'ultima esposizione ad Assisi, che poi naturalmente credo che avrà un percorso molto molto lungo attraverso l'Europa, è straordinario, perché la gente proprio si inchina a vedere che all'interno di una pietra completamente amorfa, così, con questi opportuni tagli che io vado effettuando, viene fuori una geometria così perfetta che è la purezza massima. Ritornando sul discorso della pace, si inserisce perfettamente, mi sembra, questo tuo strumento in questo contesto. Sì, ma infatti tutti naturalmente ad Assisi ormai mi conoscono e tutti legano proprio il primo intervento, che era esclusivamente sui suoni delle pietre. Il padre custode, padre Colli, aveva voluto titolare Il Cantico delle Pietre, proprio avvicinandosi al Cantico delle Creature di San Francesco. E quindi c'è una conseguenza, ecco, del suono, dalla vibrazione della pietra, proprio arrivare proprio alla interiorità più estrema che ogni singola persona ha e che lo è anche dentro la pietra, e ricercare dentro di noi prima, ma soprattutto con gli uomini, ricercare la pace, ecco. E quindi pensare che la pace può essere espressa anche attraverso la pietra, credo che sia un messaggio molto importante per la società contemporanea. Pinuccio Sciola al microfono di Dario Ceccarelli. E dalle magie dell'arte a quelle della scienza, 250.000 visite in 13 giorni, il festival a tema scientifico più importante d'Europa si è aperto ieri a Genova. E per noi c'era Chiara Bicocco, sentiamo. Le nozioni metafisiche provengono soltanto dai sensi. Come si potrebbe misurare un cerchio o un triangolo senza avere mai visto un cerchio o un triangolo? E come farsi un'idea imperfetta dell'infinito se non costringendo i limiti a retrocedere? Questa era la voce di Voltaire in uno dei suoi testi più celebri, Il Candido, un viaggio tragicomico nel migliore dei mondi possibili. Si è conclusa così, ieri, la prima giornata del Festival della Scienza di Genova. Un viaggio anche questo, ma dentro la scienza, che si concluderà il 4 di novembre. La manifestazione si dipana tra i carruggi genovesi e tocca i luoghi simbolo della città, da Palazzo Ducale, che mantiene il suo rigore nell'ospitare le Lectio Magistralis e le conferenze più impegnate, all'acquario, passando per il porto e i magazzini del cotone. Sono oltre 300 gli eventi in tutto. C'è un bollodromo, regno delle bolle di sapone, le palestre di matematica per allenare la mente e anche un circo, ovviamente sempre in salsa scientifica, perché anche i volteggi degli acrobati seguono le leggi della fisica. L'attualità non poteva non entrare nel cuore del festival, soprattutto in questi giorni. Infatti davanti a Palazzo Ducale genitori e studenti hanno protestato contro la riforma della scuola e il presidente della manifestazione, Manuela Arata, si è impegnata affinché anche Genova possa essere un luogo di dibattito, costruttivo e capace di proporre soluzioni. Di estrema attualità anche la scelta del tema del festival, la diversità. Abbiamo raccolto la voce del genetista Luigi Luca Cavalli Sforza, che ha tenuto la conferenza di apertura, e gli abbiamo chiesto di spiegarci che cos'è la diversità. La diversità intanto può essere genetica, può essere culturale, può essere fra individui, fra popolazioni, fra padre e madre, sono tutte cose diverse, no? Che ognuna ha una sua misura e si possono anche confrontare dei numeri a un certo punto. Ma l'uomo oggi è soprattutto diverso per differenze culturali e le differenze culturali sono importanti, ma si superano in una generazione. E se volete saperne di più, la trasmissione di Scienza di Radio 24 Mebius il sabato alle 20. 13:36 minuti, le notizie di oggi, GR Extra Large. In questi minuti inizia l'incontro tra il ministro Gelmini e una delegazione degli studenti universitari, altri convocati nel pomeriggio. A Milano e Napoli sono cominciate le lezioni in piazza. A Roma, annunciata per martedì prossimo, una lezione di ingegneria al Colosseo. Berlusconi intanto dice tra gli studenti in piazza ci sono anche facinorosi. Nuovo venerdì nero per i mercati europei, come avete sentito. Le stime in caduta fino al 10%. Milano cede oltre l'8 e sul fronte economico la Gran Bretagna registra la prima diminuzione del PIL da 16 anni a questa parte, meno 0,5%. L'OPEC taglia la produzione del greggio di 1,5 milioni di barili dal 1 novembre. All'Italia il Senato approva, il voto è definitivo, la conversione in legge del decreto sulla compagnia, confermate le modifiche apportate dalla Camera, tra cui anche la cancellazione del comma salva manager. Oggi i vertici della CAI tornano ad incontrare i sindacati. A Palermo il maxi processo contro il pizzo, alla sbarra 76 imputati, lo Stato e parte civile. E Catania sorride, baciata dalla fortuna del Super Enalotto, il vincitore pensi alle casse del comune, dice il sindaco. Cibo e film vanno a braccetto, anche questo al Salone del Gusto di Torino. Del venerdì nero in borsa abbiamo parlato anche in apertura di Extra Large poco fa, gli aggiornamenti dai mercati finanziari, e quest'oggi sulla prima pagina di Libero Mercato la foto vignetta, c'è un corpo steso su una barella che entra in un'ambulanza, su questo corpo c'è scritto piccola impresa, a spingere la barella è il ministro del welfare Sacconi, il titolo è il governo in soccorso delle PMI, e Libero Mercato ha un'intervista a Stefano Saglia, il presidente della commissione lavoro alla Camera. Che momento stanno vivendo le piccole e medie imprese? Se ne parla oggi al 10° forum piccola industria, Rinati per esportare, la piccola industria e l'estero, e Anna Marino ha intervistato Giuseppe Morandini, presidente piccola industria di Confindustria. Le prime tre cose sono senz'altro banche, fisco e pubblica amministrazione. Noi abbiamo bisogno come piccola impresa di avere un rapporto consolidato con le banche, ma con delle banche che decidano finalmente che siamo il pilastro dell'economia di questo paese e accettino di scommettere assieme a noi con tutti i nostri progetti di sviluppo, di crescita e di innovazione. Leva fiscale. Abbiamo dei prelievi fiscali da record del mondo su tutti i nostri bilanci. In questo momento di grande difficoltà, se vogliamo aiutare la capitalizzazione, la patrimonializzazione delle nostre imprese, è lì che bisogna intervenire con detassazione degli utili e con la possibilità di rivalutare gli immobili strumentali delle nostre aziende. Terza cosa, pubblica amministrazione, uno che paghi. C'è un pregresso, il totale degli insoluti della pubblica amministrazione in questo momento rappresenta 70 miliardi di euro. Due, una pubblica amministrazione che funzioni. Non è possibile che per una qualsiasi autorizzazione a svolgere le nostre attività di impresa si debbano aspettare mesi, se non addirittura anni. L'intervento dello Stato, l'intervento pubblico o lasciare libero il mercato, per quanto riguarda le piccole imprese, fino a che punto può toccarle? No, questo è un passaggio fondamentale, perché in un momento di crisi così complesso, così articolata, così generalizzata e globalizzata, è evidente che lo Stato deve avere un ruolo. Ci sono delle cifre e delle partite impossibili da giocare a livello di singola azienda. È bene che lo Stato intervenga, però mettendo una pezza e facendoci uscire da questo momento di crisi e poi ritornando a delle regole di mercato nuove, dove la concorrenza sia davvero riferimento per tutti noi. Per quanto riguarda proprio la concorrenza, com'è cambiata dai primi tempi in cui le imprese piccole andavano all'estero, adesso che ci sono anche diciamo diversi attori internazionali? Ma in questo credo che l'intensa attività che Confindustria ha fatto negli ultimi anni in tema di internazionalizzazione abbia potuto dare la svolta a quello che è l'accesso ai mercati e il contatto con nuovi paesi che soprattutto i piccoli imprenditori hanno avuto. Confindustria è riuscita in poco più di 3 anni a portare, ad accompagnare nel mondo più di 6.500 imprese, delle quali quasi il 100% sono piccole imprese. Queste imprese hanno sostenuto in tutti i paesi visitati complessivamente 33.000 incontri di B2B. Io credo che questo sia il miglior modo, il miglior riferimento per poter mandare le nostre piccole imprese nel mondo. Giuseppe Morandini, presidente piccola industria di Confindustria. Uno dei temi delle piccole imprese è quello del petrolio. Oggi riunione d'urgenza del cartello petrolifero OPEC. I ministri hanno varato un taglio della produzione di greggio. Roberto, buongiorno. Quanto è questo taglio e che impatto avrà sul prezzo del petrolio, Roberto? Sì, è un taglio, buongiorno a tutti, decisamente importante, forse un pochino più delle attese, 1,5 milioni di barili al giorno, una riduzione delle quote produttive di questa entità a partire dal 1° di novembre, quindi tra pochi giorni. I ministri dell'OPEC avevano paura che fosse troppo, invece in pratica si è rivelato troppo poco, come se le regole basilari del mercato, ridurre l'offerta per far salire i prezzi, non esistessero più in un periodo del genere. Tant'è che dopo la decisione dell'OPEC i prezzi dei contratti future sul greggio Brent a Londra hanno accusato un'ulteriore flessione. Il Brent ha ceduto a un certo punto il 7,3%, andando a $61 al barile, una discesa che rischia di acuirsi. L'OPEC è rimasto un po' senza armi, perché ha ipotizzato un eventuale secondo taglio, ma sa benissimo che se i prezzi continuano a scendere non potrà più portare avanti quei progetti per aumentare la capacità estrattiva, progetti nelle acque profonde, progetti alternativi che si era ripromesso di portare avanti. Quindi c'è una sorta di clima di impotenza, hanno cercato di dare uno scossone al mercato, lo scossone non è arrivato. Grazie Roberto, buongiorno, grazie per questi aggiornamenti dalla riunione OPEC. Il primo computer. Sapete chi l'ha creato? Non un'azienda americana, né una giapponese. Tutto italiano, la Olivetti nel 1965. È uno dei tanti fatti che si ricordano in questo 2008, anno nel quale ricorre il centenario della fondazione Aivrea. Siamo negli anni 50 e un sabato qualsiasi la fabbrica è ferma. Una delle poche in Italia dove quasi dappertutto la settimana lavorativa è di 6 giorni. Dentro la fabbrica ci sono un uomo, Adriano Olivetti, e sua figlia, Laura. Qualche volta ci andavo con lui, perché gli piaceva andarci a piedi, gli piaceva andarci il sabato e la domenica, si faceva dei giri per la fabbrica vuota, poi forse lavorava un pochino e poi si tornava a casa. La Olivetti celebra i 100 anni dalla sua fondazione, lo fa con un convegno a Torino e uno a Milano. 100 anni di passioni, polifonia d'impresa si chiama l'iniziativa. Ed è davvero polifonia quella che ad Ivrea, prima e nel mondo poi per anni, ha messo insieme il paradigma della capacità innovativa del nostro paese e l'esempio del cosiddetto ruolo sociale d'impresa. Nella villa situata ad Ivrea, alle pendici di Monte Navale, nasce Samuel David Camillo Olivetti. I grandi avevano. Ora che la Olivetti quasi non c'è più, quegli anni ritornano anche in uno spettacolo interpretato da Laura Curino, che sarà in scena al Piccolo Teatro Studio di Milano e al Teatro Gobetti di Torino. Una fabbrica fra gli alberi e che quegli alberi. Ed è giusto che anche in questo modo rimanga la memoria dell'azienda che ha diffuso la macchina da scrivere nel mondo, che con il programma 101 nel 65 mise sul mercato quello che viene considerato il primo personal computer, e che rimanga quella di Adriano Olivetti, che rivoluzionò il modo di lavorare e di gestire l'azienda. Prima di introdurre una lunga pausa pranzo, a concedere mesi per la maternità, a creare asili nido, a dotarsi di una biblioteca per dipendenti e operai, ma anche a crescere reinvestendo gran parte degli utili nell'innovazione e nella ricerca. Simone Spezia, GR24, Il Sole 24 Ore. E ruotano attorno a questo centenario due eventi, come sentevate. Uno si è svolto questa mattina a Torino al Teatro Gobetti con Roberto Colaninno, Gabriele Galateri di Genoli e Giulio Anselmi. Nel pomeriggio, per chi volesse, alle 17.30 al Piccolo Teatro Studio di Milano si confronteranno Carlo De Benedetti, Giulio Baglio e il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Documentari, film, registi all'opera per testimoniare il lavoro dei contadini in tutto il mondo è Slow Food on Film al Salone del Gusto di Torino. Benedito Battista da Silva è un contadino, a 60 anni vive nello stato di Pará, in Amazzonia, ed è un'istituzione nella produzione di farina di manioca. Al Salone del Gusto è protagonista del film Benè va in Italia, un breve documentario racconta il suo lavoro e il viaggio per portare i frutti della produzione in Italia, a Torino, per farli assaggiare agli altri contadini. È la prima volta che va via di casa per qualche giorno, le immagini, i saluti sono molto toccanti. Molto grato. Niente, è stato un piacere. Molti registi da alcuni anni documentano le attività di Slow Food e Terra Madre, immagini e storie dal mondo, come i suoni del mercato turco di Berlino. Testimoniano l'appartenenza di un popolo ai propri prodotti e la volontà di divulgarli. Diverte e commuove il Poeta della Grappa, un film sulla storia di Romano Levi, distillatore torinese che altro non avrebbe potuto fare nella vita, racconta, e ha solo un intimo rimpianto. Non mi ero accorto che il sole era sparito. Ho perso un tramonto. Questo tramonto qui mi è ancora lì perché l'ho perso, questo tramonto. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Torino. 13:48, GR24 Extra Large, le notizie di oggi. Nuovo venerdì nero per i mercati europei, listini in caduta fino al 10%. L'OPEC taglia la produzione del greggio di 1,5 milioni di barili al giorno dal 1 novembre. Faccia a faccia tra il ministro Gelmini e una delegazione degli studenti universitari, altri convocati nel pomeriggio. Berlusconi, tra gli studenti in piazza ci sono facinorosi. A Palermo si apre il maxi processo contro il Pizzo, alla sbarra 76 imputati, lo Stato è parte civile. La Bibbia si legga nelle scuole, così il sinodo dice, si avvierà il dialogo tra le religioni. E allora parliamo proprio del sinodo dei Vescovi che si è riunito in Vaticano questa mattina. Dovremo avere in collegamento la nostra Francesca Malaguti che ha seguito l'evento. Francesca, buongiorno. Buongiorno, sì, è in corso una delle conferenze stampa che chiude il sinodo. Oggi viene presentato il messaggio finale da Monsignor Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Il testo è costellato di riferimenti ai problemi del mondo di oggi. Si legge, ad esempio, che la strada che annuncia la parola deve portare anche alle scuole e ai luoghi di cultura. E in questo passaggio riecheggia la recente proposta proprio di Monsignor Ravasi di fare un'ora settimanale di Bibbia a scuola per gli studenti di tutte le religioni. Nel messaggio c'è poi un esplicito invito al dialogo ecumenico e a quello con le altre grandi religioni, specie con quella ebraica che, ha sottolineato Monsignor Ravasi, condivide con la cristiana una buona parte del testo sacro, tutto l'Antico Testamento. Ecco, per ora è tutto da Roma. Grazie a Francesca Malaguti. Ma proprio tra Vaticano e Stato di Israele si è sfiorato davvero l'incidente diplomatico. Il motivo? Il processo di beatificazione per Papa Pio XII. Scelta inaccettabile, l'ha definita il ministro israeliano per le questioni sociali Herzog, un'ingerenza su un affare interno, è stata la replica del Vaticano. Emilio Buttaro ha intervistato per noi l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede, Mordechai Levi. È una questione della Chiesa Cattolica. Per gli ebrei la beatificazione non è una questione da considerare. La disputa sulla persona di Papa Pio XII sarà specificata quando gli archivi saranno aperti e gli storici potranno correggere ciò che è stato detto su di lui. Senza aprire gli archivi è difficile far finire la disputa. E questa didascalia può essere in qualche modo modificata? I think there are thoughts about it. Ci si sta pensando. Alla fine la didascalia relativa a Pio XII, allo Yad Vashem, potrebbe essere modificata. Ora però, in questo preciso momento, dubito che ciò possa avvenire. Then things which seems to be impossible will be all of a sudden possible. Ed è il momento della rassegna stampa araba a cura di Adib Fateh Ali. Aperture diverse sulla stampa araba di oggi. Al-Hayat mette in primo piano il giudizio di Teheran sul patto strategico USA-Iraq. È una resa umiliante. Fondo del giornale titola: oramai è una corsa tra l'Iran e gli Stati Uniti per appararsi l'Iraq. Al-Sharq al-Awsat apre sulla presidenziale USA e con un gioco di parole titola: dall'Alabama ad Obama. È un sogno nero per la Casa Bianca. Al-Quds al-Arabi parla invece di una riunione segreta tenuta tra funzionari della ANP e militari israeliani e USA per passare il controllo della città palestinese di Hebron in Cisgiordania alle forze di sicurezza palestinesi. Il 90% degli uomini egiziani non sanno cos'è il brivido dell'orgasmo di una donna e sono convinti che l'amplesso sessuale termina quando raggiungono il loro orgasmo. È la sorprendente conclusione di una ricerca condotta da una nota docente universitaria del Cairo. Al sito web di Al-Arabiya la ricercatrice ha spiegato: a causa della delicatezza del tema non abbiamo reso pubblico il sondaggio, ma assicura che il dato sta alla base dell'aumento dei divorzi. E come ogni venerdì, attenzione alla guida. C'è un argomento particolare che vorrei sottoporvi oggi, ascoltatrici e ascoltatori, naturalmente sottoporlo a Silvio Scotti, come sempre, comandante della Polizia Municipale di Monza ed esperto del Sole 24 Ore, che è questo, è un'idea piuttosto originale sviluppata da un'associazione che si chiama Fraternità della Strada, e già questo è un concetto piuttosto emblematico, che ha praticamente codificato una serie di segnali positivi, si chiama Codice delle Segnalazioni tra Guidatori, dovrebbe essere una specie di bon ton, invece delle solite corna, i gestacci vari che possiamo fare con le dita della mano. Propongono per esempio un rapido battito delle dita per avvisare che si sono dimenticate le frecce in funzione, oppure non si sono accesi i fari, o un gesto della mano per dare precedenza o per scusarsi. Può questo civilizzarci un po' di più e quindi rendere anche la circolazione stradale più sicura, Silvio Scotti? Certamente, direi che si tratta di un'idea interessante, anche se devo dire che se fosse un pochino più diffusa la cultura della legalità nel senso del rispetto del codice della strada, forse ci sarebbe bisogno di un numero inferiore di segni. Però mi viene in mente nell'attraversamento delle strisce pedonali, no? Quanti in alcune città ancora in Italia, a me è successo all'estero, che si fermassero addirittura metri prima delle strisce quando vedevano che uno accennava minimamente ad attraversare, ma ancora in alcune città italiane c'è abbastanza questo senso di civiltà. In altre, parliamo di Milano per esempio o Roma, quasi velocizzano gli automobilisti quando vedono qualcuno che sta attraversando per passare prima, no? E quando invece ti lasciano passare si ringrazia, almeno io ringrazio moltissimo, come fosse una specie di concessione. In realtà in quel momento il pedone gode di diritto di precedenza. Ricordiamo anche che si tratta di un'infrazione abbastanza grave, ahimè poco contestata, e secondo me una maggiore attenzione sarebbe necessaria. Ricordiamo che è punita con una sanzione amministrativa che parte da 143 euro per arrivare fino a 570, e che è prevista anche la decurtazione dei punti. Il fatto di non fermarsi, dici Silvio? Esatto, è prevista la decurtazione di 5 punti sulla patente, perché l'attraversamento pedonale è una zona dove è il pedone che gode del diritto di precedenza. Quando questo si avvicina all'attraversamento pedonale, l'obbligo è quello di arrestarsi e consentire un agevole passaggio. Ma c'è bisogno, io vabbè continuo a ringraziare perché è sempre un gesto cordiale il fatto, però in realtà sarebbe un mio diritto come quello di qualsiasi pedone passare sulle strisce. Precisamente, ed è un dovere concedere questa precedenza. Però chissà perché siamo abituati a percepire come cogente il segnale di stop quando viaggiamo in auto, quindi ci avviciniamo, ci fermiamo sulla striscia d'arresto, ma non siamo abituati a pensare di concedere la precedenza al pedone quando si pone vicino all'attraversamento pedonale. Ecco, si tratta proprio di un ribaltamento, insomma, di concezione. Ci arriveremo, speriamo. Intanto ringrazio Silvio Scotti e Roberta Giordano, come sempre vi invita a guidare con intelligenza. Tra gli studenti, gruppi di facinorosi, dice Berlusconi. La Gelmini li convoca per discutere. Nelle università è ancora blocco delle lezioni a Milano, si studia in Piazza Duomo. Un altro venerdì nero, le borse europee non riescono a reagire, le perdite superano anche il 10%. La buona notizia arriva dal petrolio, con prezzi ai minimi dal maggio del 2007, ma l'OPEC taglia la produzione. E a sorridere Catania, con i conti in crisi ma baciata dalla fortuna del Super Enalotto. Il fortunato pensi alla sua città, dice il sindaco. E a Palermo si apre il maxi processo contro il Pizzo, alla sbarra 76 imputati, lo Stato e parte civile. Le pietre suonano per la pace, quelle dell'artista Pinuccio Sciola, ad Assisi cantiere aperto per la marcia dell'arcobaleno. Anna Migliorati e Alessio Maurizio in studio, termina qua questa edizione del GR Extra Large con il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. L'appuntamento è per lunedì, se volete scriverci extralarge@radio24.it. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.